mi sto preparando, così quando arrivi usciamo. D'accordo, d'accordo. Ui, ui. Avanti, Nataliti. Anzi, no, Gianni, facciamo dire, prende il paparaccio. Ci ne parla dall'antenna, adesso siamo a terra ora. Che bello sta portante. Comunque anche tu un po' che si difende bene. Che bello. È una bella passante per Tolghero già. Preso culiscio, la fretta, perché se attacco giù in mezzo verrà la scena. E sono con il coffo anche normale. Vieni fra la prova che ho fatto con un amplificatore a casa mio. L'altro giorno? Ehi. Alla grande, però insieme ero a Sassari. Sarebbe avuto fatto una prova lì a Salghiera a vedere cosa incrementava. Guarda, l'ho fatta con Carlo. Ha parcheggiato nell'aeroporto lì a Fertilia e ho detto aspetta un attimo, facciamo una prova. Gli arrivavo mi pare 8, parcheggiato lì nel parcheggio dell'aeroporto di Fertilia. 8, ho detto aspetta che cambio radio. Ho cambiato radio, sono andato con l'altra, ho attaccato l'amplificatore HF, ma in love, perché quello c'ha due potenze micidiali, è un 0,30, è un amplificatore valvolare. Lasciamo perdere, non è un giocattolo. E glielo messo in love. Già in love sono passato da 8 a 9 più 10. Poi ho messo in HI la potenza massima con 50 watt d'ingresso, perché quello c'ha 0,100 d'ingresso, perché essendo HF prende tutta la potenza della radio. Come ho messo in HI sono passato a 9,50. Allora, buona, poi cioè non è che aumenta il segnale, aumenta tutto, la radio era perfetta. Sì, perché c'è il regolatore di... è tutto in automatico, capito? È un ACOM 1000 si chiama. È un amplificatore costicchia ancora, costicchia. Costava più di 2000 euro, io l'ho pagato 800 euro usato. Ma l'ho fatto da fare, ma l'hai fatto a Marco Scorzio. Se no, non te lo danno a quel prezzo. Giannetto, riprendi? Ehi, allora... Va bene, ma non lo stai più usando quello lì? Non lo sto usando? Adesso te lo accendo il stand-by, guarda la ventola. È partita la ventola, sì. Devo cambiare radio però per farti vedere il segnale. E intanto adesso non lo stavo controllando perché sono col Cobra, lo sa benissimo che il Cobra più di quel tanto non sale. Va bene così. Ma non ce l'hai più quello della IAESO? No, quello della IAESO l'avevo venduto prima di trasferirmi. Poi mi è capitata questa occasione, ho preso l'ACO 1000, tu lo conosci, no Natalia? Quello della IAESO conoscevo. FL 7200, sì, anche quello, ma questo non ha niente a che fare, Natalia. Questo è un computer, questo fa tutto, c'è anche il grafico della modulazione. Sono amplificatori, Marco lo conosce molto bene. C'è l'amplificatore antenna valvolare, c'ha due valvole. Le, non me lo ricordo, comunque sono due grosse quanto un bicchiere, è un non so quanti watt di esattamente in banda laterale, io lo sto facendo andare piano piano la verità, però ho visto che una M con 40 watt d'ingresso e tira fuori intorno ai 500 600 550, quindi penso che sui 700 in 70-80 watt di tiri fuori, manda laterale dovrebbe essere il doppio, non lo so, non ho mai provato in manda laterale. Adesso l'ho messo in stand by, sta scaldando, poi cambio radio e te lo faccio vedere. Chi è sul ponte? E consumi? Consumi? Non so che consumi, no, non so. Questo è un 0,30 già, no, non è un lineare per attaccare i baracchini, non si può attaccare i baracchini questo c'è, tra mini cubici che spento, questo non si può attaccare i baracchini per avere l'HF, per poterlo attaccare perché c'è il cavo di commutazione a relè, altrimenti non funziona. Ah, ecco, profitto. Vabbè, ma è abbastanza, se è attaccato è abbastanza ripido come radio, come tutto, non distorce niente. Sì, pratica. No, le sono con 140 adesso, con l'altra radio. Sì. Quello è collegato sul 430, questo è 140 con le 60. E il degredo. Ho abbassato anche il microfono che ce l'ho a metà il macchinino adesso. Come va la radio? Guardate quanto accende la macchina. K. La radio 105 comunque. Cosa? No, questo è il 430. Questa è l'altra radio già. Questa è quella che è collegata all'amplificatore, ma ancora non l'ho collegata. È bello potente anche il radio. Questa? Vabbè. Questo è il mio razzo preferito, vediamo un po', no, mettiamo in scala 1000, questa è scala 1000, vediamo un po', questa è potenza minima, noi facciamo casino, senti un attimo, allora così è normale, questa è la potenza minima dell'amplificatore, come vedi non cambia, cambia solo il segnale ma non cambia la radio. No, no, vero. Aumenta la radio. Aumenta, no? Sì, perché c'è un sistema particolare che mantiene praticamente, accoppia bene sia il trasmettitore con la radio, capito? Con la TEF, perché c'è il cavetto dell'autocontrollo dell'LC. E come lo IAISU è là? 030. Cosa ti volevo dire? Io il microfono l'ho abbassato perché c'avevo il macchinino e la manetta, quindi adesso è più basso, però va bene ugualmente, no? Sì, no, la grande va bene. Va bene, no? Benissimo. Vabbè già, segnale quindi non è salito in quel cobra. E Gianni non c'è più. Sì che ci sono qua, scusate ma mi sono spostato due secondi. Ho detto ma non l'ho fatto salire il segnale in quel cobra, sempre a Santiago 9. Quel cobra è fisso, è sempre fisso, il massimo che dà è quello, già lo sai com'è. Glielo volevo registrare ma non lo voglio aprire, mi rompe le scatole ad aprirlo, capito? No, c'è da attaccare la sonda Gianni. Si fanno regolazioni così, c'è da attaccare la sonda, c'è da fare una cosa fatta bene, la strumentazione, quello l'unico che lo può fare bene con la sonda è Fabrizio Batt, o un tecnico come lui che c'ha la strumentazione, non si fanno le regolazioni così, assolutamente, anche io c'avevo il 430, questo qua che era un po' lo smitter rispetto all'altro che ho, era un po' da regolare. Mi ha montato il filtro della M e mi ha fatto tutte le regolazioni, adesso è perfetto, ma si fanno con la strumentazione. Franco, mi ascolti? Franco, città, cambio. È sceso dalla macchina. Ah, è sceso dalla macchina, ho capito. Ora sta tornando a prendere i pasticcini. Gatta. Franco, una vita, mia moglie, collega di mia moglie, conosciamo una vita. Intanto ci riuniamo. Va bene, va bene. Quindi già, la modulazione ti piace, è buona, non cambiare. Questa è la prima potenza. Ma tu la tari stai guardando, sì. La 9915 passa, è sul più della crocetta del 920. Se conosci questo smitter è così. Sì, non voglio, lo conosco. È uguale a quello dell'820H, non cambia niente, sono tutti uguali quelli smitter analogici così. Guarda se sale ancora, guarda. Guarda, questa era la potenza minima, guarda se sale ancora. Guarda, tutto in diretta faccio io, perché intanto è tutto in automatico. Salito ancora. Ma poco, ha superato il più ed è quasi a 9.20. Gassare, gassare, lontananza micidiale. E ci mettiamo a potenza minima. Potenza low, questo è low, non farò mai se ne. Il bello che non è neanche rumoroso perché ha la ventola, forse uno degli unici amplificatori che ha la ventola sotto, sotto la pancia, non ce l'ha dietro, c'è la ventola sotto la pancia, molto si sente. È impercettibile, poco a poco, perché manda l'aria da sotto. E si conferma. E si conferma, sento l'elio che aggancia, fa pum. Lo senti tu, no? Sì, che ce l'ho sentito quando l'hai cominciato. Piacente. Bene, bene, quindi Gianni, ma perché già non ti fai vendere la nuova nuova, come te la stai comprando nuova, la Mantova Turbo di Giulia, se te la va, e monti nuovamente quella? Già. Sì, starà cambiando a parecchio, ogni tanto ne già ma uno. E io sono un vecchio non so, sempre acceso, però non lo sto più usando. Oramai c'ho nuovamente 4 TF, c'ho 757, 2430, 140. Questo è dedicato alle HF 430, l'altro invece gli altri due li usano 27. Va bene, va bene. Attento doppio root. Non si sente, ma il 757 è bene, va in AM. Così è Natalino, lo uso con l'Adonis, col 508, guarda quello tuo, però a volte mi avete sentito, però non è la tua modulazione, non è qui, non è là, non è, vabbè, bocciura mi butto, passa e sta, è sempre fermo da una parte, ma quant'è c'è attaccata, perché il commentatore ce l'ho sulle tre principali, capito? Sui 3K ce l'ho comunque a 3, e quello è 3K, non fu tenuto. Ho provato un sacco di volte, tutti mi dicono, non è la tua modulazione, non ha niente a che fare con l'altra, sì, va bene, qui, là, boh, allora, uso il K. Eccomi. Eia, Caponaro, se mi ascolti, sto andando con, dopo lo faccio vedere, amplificatore DS430. Era minimo però Io vi ascolto bene. La modulazione è sempre quella, no? Fra, non cambiano. Bella, bella, chiara, limpida. Recovaro di Diaghi. Recovaro di Diaghi. Andrà bene, andrà bene. Campo di rosma, però. Eppure se lo busco il 757 mi rubiglio. Guarda, per me esteticamente è più bello del 140, ma come funziona è molto meglio il 140, assolutamente. Io ho fatto un affare, vabbè, ho fatto una cosa, uno scambio con Roberto, eccetera, ho potuto prendere la roba, quindi questo non l'ho sempre preso io e vabbè, abbiamo fatto un cambio. Se no ne avrei preso, non mi serviva, capito? Ma Antonello non c'è più, Antonello. Ci sono, l'altro giorno c'era l'857D, ma l'857D, quello che sta dicendo Natalino, c'era l'altro giorno su Facebook, mi pare valeva 280 euro, una cosa del genere, infatti non ne ho preso io di quella, anche perché lo conosco, se parte la ventola e non funziona, si brucia immediatamente, è successo a me una volta. Mi ha dato Stefano a provare, quanto è durato? 48 ore. Sentivo sono di muffa, sto pensando, no, prova lo stesso, non ti preoccupare, metto l'orologio, cazzo non ti preoccupare dopo un'ora e mezza è entrato Marco, mi ha detto, adesso ti si brucia, mi sa, se non è più uscito in trasmissione, c'è buonanotte. 857D, no, ma quelli sono, non servono a niente per la 27, mettiamo prova il 757 GX2, giù io, il Cam System, l'ultimo che aveva fatto la IAESO di quella serie lì, capito, nuovo, anche lì, la vetrina, nuovo, mi aveva visto Franco Califfo, e mi ha messo la maniglietta perché non c'era la maniglietta, quella che c'è laterale, no, che non c'era, mi ha messo a luce. Nuovo, non lo uso perché in AM non mi piace la modulazione, mi piace più quella del K, capito? Ehi, vabbè, fatto per la banda laterale, capito? Sicuramente sì, però lo tengo, ma ogni tanto lo attacco, faccio, vediamo. Quando poi sistemo le antenne bene, che metto la verticale sul 430, magari il dipolo dei 40 metri lo metto sul 757, vediamo. Non so, qualcosa farò, insomma, più avanti adesso. Adesso ci godiamo l'inverno, poi d'estate ne parleremo. Gianni, ci sei? Gianni non c'è. Vabbè, dai, io rimando il Quirix, dai. Vediamo un po' lo che è arrivato Franco, fra. Sono alla fine del Ponte Nuovo. Ecco, Brecco. Avanti, Brecco. Buonasera a tutti, buonasera. E beh, bombolo. E beh, allora. Va. Bene, bene, allora, a posto, capo, buon servizio, saluto tutti in generale, per non dimenticare nessuno, ok? Sembra che qua sono tutti colpiti però, eh? Ah, così è. Non vedo nessuno in generale. Vabbè, tu, come va? Ha finito? Vabbè, oggi è di festa, va. A casa ero. Vabbè, dai. Io volevo dire in piedi, ma oggi sei a riposo, da. Ciao, a riposo. Solo in fretta, fra, ma solo il sabato, capite? Il sabato va in fretta e poi gli altri giorni riposo. Sabato fa karaoke? Ciao, oh, pure dopo, più tardi. Ah, vai anche la domenica. Ciao, va bene, va bene. Meglio così, meglio così. Va bene, dai. E mi ascolti anche così? A voglia che ti ascolto, tu mi ascolti. Alla grande, alla grande. E va bene. Ma ti devo attenuare, oh Claudio, non è che mi fai la parecchia, no? Sono poco fa che ti ho detto dove sei, in modo che stacco. Sono alla fine di via Lunetta, dai. Sono un po' vado per le piezze. Allora stacco, dai. Allora aspetta che lo mettiamo in stand-by. Questo è già la minima potenza. Andando oltre 350, si vede una roba alta potenza, aspetta. Eccolo qua, staccato, vai, poi sei più sicuro, fra. No, ma solo metto, come si dice, l'attenuatore? No, se già 9.30 vuoi già mettere l'attenuatore, vuol dire che stai avvicinando. Tanto fai lì, adesso, dalle querce, di lì e sei arrivato, quindi è meglio staccare, vai. Un saluto, un abbraccio, grazie per essere entrato, Natalino. Noi ci vediamo dopo, invece appena arriva Franco prendo il microfono e scendiamo, capito? Ok, dai, ci sentiamo, ciao a tutti, buona serata. Dai, facciamo la radio in macchina intanto Franco. Me lo fai sapere via radio così scendo, non c'è problema. Oh, ciao Antonio. Ehi, ciao Natali, buonasera. Buonasera anche a lei. Ciao Antonio. Ciao, e beh, Pompo. Sì, vabbè, saluto di presentito. Guarda Natali, c'è un ICOMO 737 380 euro se lo vuoi. Poi c'è cosa diavolo c'è di altro, bisogna controllare. Su Marte Place deve andare. Vai lì, ci sono degli apparecchi in vendita, ci sono. Ok. Per adesso lascio così. Chi mi devo piazzare antenna, io ne devo fare poco di cose. Come mi sono sbagliato cosa con l'apparecchio cloud. Comunque la 757GX per esattezza. Se si è incendiato. Tu lì, non ti fidare mai di quelle apparecchi, sono un modello un po' strano. Meglio un ti procuri al limite un 140 e se la biglia a Napoli. Avanti Antoine. Dicono che vanno meglio. Qui domino Sassari. Da qui da lì sopra sì. Sì, vicino a me, sì, di fronte. Bene che sto arrivando. È la massa che ti rivaglia, anche qui stai vanno bene. Cioè. E io bene ti sto arrivando, sì. Ma non vedo il segnale, ma. Cazzo non trovi il segnale, ma perché si parallela a me, sì. Figurati. Natali, dai, ti chiamiamo lungo la strada, Natali. Ehi, no problem. Cappa, cappa. Qua sai che non sei male, sì, Santiago Novo è qua. Adesso devi trascendere però, Già partito, sì. Sì, adesso c'è la salita, poi c'è la discesa, poi ci sono i curvoni, eccetera, eccetera. K. Una due volte l'ho fatta con la strada, con... per fare i cancelli elettrici, lì ci abita del sole, ci abita. Anzi, ci abita qualche cosa, la verità, c'è la mano, va lì buttata. E poi è morto, quello parlava palattino Roberto, diceva la manto va già rimpiazzata lì in quelle villette. C'aveva il palacchino un samurai che sembra ci aveva, quindi figurati. Lì cavolo, come si dice, sono belle zone già. Sto dicendo, ho pensato alla manto, ma io a Roberto, la manto va a 5 con i radiali di Gran Premio, allora lui bisogna vedere come riusciva, mi sono ammodulato a me, lì sopra, perché è molto più alto di me. Io sono proprio più basso, però salendo più su di quella zona lì, tra le frecce, facendo la salita quasi prima del curvone, e lì già è alto, è tutto aperto. Dipende poi, come la storia. Bella l'antenna, dove c'è quella specie di... è che pericoloso, se vi piace un palo lì dove c'è il deposito dell'acqua, fai la parafulmine. Ma scherzando. Sì, vabbè, a motore ho visto che sotto il traliccio della RAI c'è il deposito dell'acqua di Monteoro, eppure non è mai successo niente. Quindi... cosa hai fatto? Ho detto sotto a Monteoro, nei ripetitori, c'è il deposito dell'acqua lì, non lo sapevi. Ho capito. Il traliccio è attaccato proprio al deposito dell'acqua, quindi immaginati tu se ti piace un traliccio lì da sopra, da 10 metri ti basta anche, ha voglia, da lì ti diverti. Già lo so, già. Spero di non disturbare, cioè quello lì bisogna stare attenti. Poi in questo baracchino disturbi alla RAI, no? Ah, vabbè, diamo te la baracchino, non ce l'hai piazzato, ma... mi voleva portare una volta a cosa, però spero quando era la Bolani mi dice dobbiamo andare, dice, a Montella per fare le lampadine rosse, mi ha detto fa la cosa e comincia ad andare, gli ho detto e pigliate nel culo tu le lampade, detto, del ripetitore di Montella, gli ho detto tu sei tutto scemo, gli ho detto oh ma c'è ancora, mi ha detto non ti preoccupare, sali insieme a me, vai se devi andare, vai, già sto bene il laboratorio, gli ho detto io. E chi a Timmy? Ah no, a me la stessa è così, se dovessi salire in una scala di 12 metri non ci salgo manco morto, io me ne frega niente. Già una volta sono salito con quelle scale di legno che c'era lui, che quando arrivava a me e cominciava a ballare, faceva gni a quella sopra. Marco Fabrizio si è salito perché ha detto se questa scala si spezza in due, fate il legno, ciao e buonanotte, ha detto, mi recuperavo a pizzi. Mia madre di vecchia. Uscillava un me, uscillava tu, devi vedere cazzo come salivi. A me, cioè, i primi 6 metri tutto posto a posto, ma dopo passati 6 metri, cominciava gni, la scala, gli ho detto no. Sono sceso di nuovo, voglio fare la cosa, mandaci a Fabrizio, se no ho detto mi apri la finestra, ho detto come si chiama, esco la lì, gli ho detto, che non devo fare, ho detto rimane c'è secco qua, gli ho detto, lì al monte. Hai capito? Le palle ci vogliono per salire così. E perché lui ci saliva? Non c'è salito, voleva essere voi, ha giocato, cazzo, sei tutto scemo, gli ho detto, che io sa quello là sopra. Vai, è salito, gli ho detto, se no, se la prende in Napoli, ho detto, l'antenna è 50 euro che ti stai facendo, gli ho detto, vai, che non vado ad ammazzarmi. Allora è salito dall'altra parte. E a me mi fai salire, ho detto, da terrazzino, ho detto, le palle a fianco, gli ho detto, ci salgo, ti salgo l'antenna, e poi me ne scendo, gli ho detto. Ma io così, ho detto, da piano di terra, fino a salire, ho detto, a farmi 3-4 piani con una scala così, tu sei tutto matto, gli ho detto. Il rischio c'è. Stai spezzando, se si spezzava la scala in due, quella fatta in legno, no, non saranno, non me la frutti nulla a me. Infatti non ci sono salito. Avanti, andata lì. Mica. Guarda la radio com'è, Antù, che ho abbassato il microfono. Sei un po' più basso a tali di modulazione. Sì, perché ho abbassato il microfono. perché c'avevo prima il macchinino a manetta, capito? Gappa, avanti! Guardi che io sto parlando, ma devo andare a dire una cosa a Sara. Ci sentiamo tra un pochino. E cappa. Ma anche Pompugno si è parato. No, sono andato a fare la pupù 5 secondi. E a pigliarmi una lattina di limone a beba. Oggi sono tutto qua, tutti i giorni felice. Lavando in terra, facendo roba, mamma mia. Poi c'ho l'FM500S, non so, non ho capito perché l'FM non esce più. L'incezione va bene, la trasmissione no, no. Adesso non me ne frega niente, lo regalo così com'è l'apparecchio. E quello è perché quando c'è la cosa la lasci da una parte, capito? Prima usciva e io poi non lo stavo più usando. Io ho tolto il bip, la strada del bip, gli ho lasciato il nuovo originale. Adesso lo regalo Antonio. Domani il telefono, io dico guarda, il FM non esce. Io così come va a fare cuffia provvisoria, poi c'è il cassonetto, lo dico. Almeno lo utilizzi a casa tua, dato che c'ho lo stile della boomerang, si piazza l'antennino e va a fare cuffia. Perché non provi a ripararlo invece? Senz'altro il trimmer, capito? Il trimmer dell'integrato. Perché in ricezione esce, la portata sale, cioè l'audio basso, capito? Quindi è roba di trimmer. E allora lo ripari, cosa ci vuole a riparare? Sì, non ha giocato, la verità, non ha assolutamente voglia. Anda bene in Meda. Ah, è modificato, quindi. È stato modificato una volta, poi ho fatto la seconda di modifica perché per i canali di sotto. Perché c'ha tutti i 40 canali, c'ha, capito? Sì, ho capito. Gaba. Ok. Beh, almeno questo microfono che trova la vento non si sente, che questa vento ti rifaccio. Rimetto il trimmer. Anzi, la metà testa in giù la metto. Che avuto prima. C'è la piazza dentro uno scatolone e ce la metto testa in giù. Chiara gara. Devo ancora. Capite come funziona la saggia, ce lo sai. Perché no. Non ci ho ancora fatto la mano. Il menu è a posto, non devi toccare nulla, c'è il macchinino regolato, tutto a posto. Uno è per l'eco, l'altro è per la potenza, quello interno, quello grosso, è per la potenza. Io ho scritto RF Power. Quello lì lo va in senso orario, aumenta la potenza. No, non capisco. Potrei adesso, vabbè. Non sta facendo bene, è perfetto. Già mi sto accontentando, anzi, meglio di niente già. Almeno c'è quel RM basso, quando piove non sento un tubo. Ho fatto già la prova per fare la prova con l'FM500S, ho già visto, già mi sono regolare tranquillo, quindi va bene. E infatti, certo, quelli sono apparecchi che vanno bene. Sì, andare. Già va bene. C'era un bel apparecchio quello 737, 380 euro non è molto, è grande mio, ma con display arancione come questo qui del frequenzimetro, basta che te lo guardi dopo su Facebook, vai in quelle in quel sito lì e lo trovi subito. che scappa, va, andava così, che devo fare posto qua, se no dove me lo metto? Se lo metti sopra quello che c'hai, cioè sotto quello che c'hai, perché quello lì che c'hai adesso è la metà di quello là, se guardi la foto. E bisogna vedere se ci sta anche in altezza. Voglio dire, ci sta, già ci sta. E vediamo un po' da adesso, ho da pensare a mettere le antenne, tutte cose. Prima pensavo l'antenna, che lì dove sei non è che ti puoi regolare più di tanto. Se è inutile, cioè comprati l'apparecchio, questa l'antenna, se non prende palle l'antenna non la puoi usare, hai capito? Ma mettiti l'antenna nuova, se vedi che sei tranquillo, che non disturba nessuno, ti installi quello che ti pare e ti piace. Ma queste non disturbano, se addirittura c'ha l'antenna a 2 metri dall'antenna TV di un vicino, Giulio, e non è neanche piazzata sul palo e non lo disturba assolutamente, quindi queste antenne non disturbano, capito? Poi la metto più in alto, pure adesso di dove è questa qui, gli cambio il tubo, no? Perché quello che c'è si rubuccia, alla sinara la ciappo, si vede il tubo. Gli cambio il tubo dove c'è attaccata l'antenna e quello è troppo fino. Cambiaglielo, perché quella tela già c'è che è freddo. Io c'ho quella, mi ha fatto Luca, e ci hanno pensato a casa di Giovanna, e l'ho messa lì. Vabbè, senza si attaccano la pesca naturalmente, perché quando ho pensato nel terrazzo di giù, che è arrivato sino alla punta del tetto, immediatamente quando, vabbè, adesso non c'è più quel capocondomino, adesso San Giovanni Rotondo si è trasferito lì, da qui se ne è fuggito. Quello era un più male, come mi telefonava immediatamente non prendeva le balle a me. Adesso come non c'è più, però non vorrei magari che ripiazzando l'antenna di lì, col cavolo di C58, mettendo il baracchino in salone, hai capito? Non penso di tornare le palle, più che altro. E quindi adesso voglio cercare il sistema di mettere il cavo a Giovanna e gira e gira e sta con il cavo dell'antenna TV, quello ormai tolgo il satellitare, quello satellitare lo passo alla TV. E così scendo 12-50 direttamente in casa e così almeno parla col baracchino, anche lì, mettendogli la canna da pesca, capito? Mica, io ci avevo tutto quello che c'è dentro alla Game Master, che l'avevo fatto io, però non avevo la canna da pesca abbastanza lunga, no? E l'ho praticamente l'ho provata e funzionava benissimo. Dovrei averlo in campagna tutto l'attrecolo che avevo fatto. E allora ti vengo imparato, bastava comprare una canna da pesca, un'altra lì. No, e dovrei averlo, non lo so se ce l'ho, in campagna dovrebbe essere tutto l'attrecolo che avevo fatto. Bene, mi la bobina l'avevo fatta in H155, quella di sotto, poi ci avevo messo il 213 per fare quel pezzo lungo, e l'RG58 per l'altro. Guarda che era uscita veramente bene, l'ho messa di traverso qua fuori dalla finestra e funzionava. Funzionava bene anche quella che c'era attaccata alla cosa, all'antenna parabolica. Come l'antenna parabolica? Quella che c'avevi fuori, l'antenna dove c'era l'attacco dell'antenna parabolica. E me? Quell'antenna lì funzionava bene, ho detto, dici di pollo lungo, non finalmente. Quel di pollo lungo. E non sarà stato quello. Quella che poi arrivava attaccata all'albero, ce l'avevi attaccata, dietro la casetta. La casetta della mia. Ah, e cavolo, quello è ancora attaccato lì. E su un palo da 10 metri, mi sei. Via. Adesso devo per dire, c'ho un po' di stazionari, 1 e 3. 1 e 3, boh, saranno. A me, io più di 2 e mezzo c'avevo stazionari, perché mi si piena l'antenna d'acqua, quella che ho io. Perché deve essersi consumato qualche gommino ed entra dentro dove c'è la bobina. Come piove non lo posso usare. Beh, eccomi, sono ritornato. E ora, o c'è da qualcuno sotto di te, Antonio. Aspetta, chi è che voleva entrare? Ok, Antonio. Buonasera, buonasera. Allora, sta arrivando bello forte però già, Cosa? Sta arrivando bello forte. È di segnale come arrivo, meglio di prima o come qui? No, cazzarola, sei quasi 9.40, sì. Cosa hai combinato? Mi si è troncata l'antenna. Ma hai cambiato l'antenna? Mi si è troncata, Ma vai. Non mi sa fare, che ha fatto, ma troncato l'antenna. E quindi? Era pinzuloni, gara, tutta pinzuloni, e quindi l'abbiamo aggiustata. Era tutta pinzuloni, stava mettendo solo il filo, avevo paura, ma non si poteva fare nulla, perché c'era quella graminata e quei giorni, di cosa facevi? Non potevi salire, no? E niente, era pinzuloni, stava mettendo solo il filo, tutto troncato in due. Ma l'avete aggiustata? L'avete funzionata? Abbiamo aggiustato. Capa. No, il segnale è forte, la verità, dico la verità. Va, fa piacere che va bene. Capa. Forte ti arrivo io. Capa, però con questo apparecchio ti posso dare segnale a tu, perché questo qui arriva al massimo a 9, lo Smitter. Ma là, dalla casa è così. Vorrei regolarlo questo Smitter, ma non mi dà cuore aprirlo questo apparecchio, capito? Deve farlo qualcuno che lo sa fare bene, deve prenderlo in mano e vedere di registrare lo Smitter. Già lo so, già. Non so che apparecchio sia, però grazie un po' Gucci, da come Smitter, magari tutto va bene, ma lo Smitter è un po' go. Cobra, non è un apparecchio così, questo è un apparecchio con i contraccavoli, solo che lo Smitter ha questo problema, adesso è andato un po' fuori, non lo so come, che cosa sia successo, però già va bene lo stesso, va. Vabbè, si può aggiustare, là. Ah, da registrare, baffa, non è da registrare nulla, è da registrare, bubu. Gappa. Perché se no non capisci che segnale c'è veramente. Se va bene o male, i segnali li conosco tutti, capiti? Se ti abbassi me ne accorgo, sto facendo bene, quindi. Cosa stavi combinando in questo periodo che non ti avevo più sentito? Niente. Stavo lavorando, un bel. Antonio, ma quel sito stai andando? Ho poco tempo. Ah, io sto cantando un bel. Mi sta sillando un bel. Capa. No, io ho imparato molto in fretta, diciamo. Qua ti devi saper perfezionare nel canto, non è che così, no? La voglia di cantare per imparare a cantare come si deve, ma non è che a prima acchito impari così, come dici. E vabbè, comunque, io già mi sto destreggiando molto bene adesso. Capa, ma direi così, guarda, dimmi quello che vuoi, però con dei microfoni, un impianto professionale, tutta quanta un altro pianeta. Ma io c'ho tutta l'attrezzatura, c'ho le cuffie col microfono, c'ho tutto. No, ma cantare col karaoke è vero, è un'altra storia. Sono tutta un'altra storia. Io ce l'ho il karaoke, c'ho la cassa col Bluetooth che c'ha 300 watt d'uscita. Immaginati quello sotto casa tua, cazzo. No, ma non lo uso quello lì, canto molto. Vorrei cuffie e il microfono, capito? Beh, a quello vivo è quello che abita, insomma, come c'era sotto, sopra di te, già. Quello avevo fatto di pianto l'antenna io, quando stavo lavorando con un Zaik, il pazzo. Ah, sì, sì, Ruda, sì che vivo. Ma non abita sopra di me, abita nell'attico lui. Se ne sono già vivo. Fagli fare tanto con karaoke, vedete come tanto l'ha già messo scemo la prima. Oh, per carità. Cioè, l'altro giorno stavo uscendo con la macchina dal parcheggio ed è uscito anche lui. Cazzo, ma cioè non mi vedi che sono discendo io? Aspetta, no, va a uscire, no! Cioè, non ti ho visto, cazzo non mi hai visto, ma quando me non abbaiti prima di uscire. Sì, tu dicendo che non c'ha cervello quello, davvero. Quando l'ho conosciuto, per carità, ad una due volte sono salito, ma alla fine ci hanno mandato a fanculo. E da io, Manuele, ritira tutto e che si è andato anche in culo, lui è il coso, gli ho detto. E infatti ce ne siamo andati, quando ha telefonato a usare, ma tu mi dai i soldi, gli ho detto, che lavoro l'ho fatto. Poi, se ne vuole a cagare lei, tu l'impianto, gli ho detto. Una volta deve essere per sbaglio dove vanno a metterla, lui l'hanno messa a me. E questo carrozziere che lo stava minacciando che se non pagava il lavoro che gli aveva fatto, la verniciatura della macchina, se la incendiava. Tu gli hai detto che non c'entrava niente. Ti ho mandato una foto già. Sì, quella qua. Scappa, e tu non entravi nulla. No, ma proprio quello lì, Antonio, proprio il saluto forte era lì. Tu immaginati, io quando sono salito nella palazzina di Gianni, stavo lavorando, ancora come usare stavo lavorando. Dovevo fare un intento con l'antenna, adesso mi ricordo se era la parabola o la TV, non mi ricordo. E cominciato a rompere le palle, a un certo punto ho detto, ascolti, ho detto, lo salta qua sopra, detto, per piacere, se lo vedo, ritiro il martello, gli ho detto. Allora, non rimango giù, ecco, rimango giù, io sto facendo il mio lavoro, non mi giro i coglioni, questo ho risposto. Ho detto, se vuoi ti rimango alla testa. Adesso che finito il lavoro, la TV si vede bene, mi dai i soldi che deve stare andando. Ma torna, gli ho detto, o mi dai i soldi, se no stacco su, stacco tutto mio, cioè, ci metto a volta. Allora, no, aspetta che gli do i soldi, che me la dati. E se no stavi con la pubizza e tagliavi. Appunto per quello tagliavo, sì, guardate che lo lasciavo così. Non sono morire a pagare, io non l'ho compreso. Perché ne voleva poco di macchine, voleva che li sentivano il televisore, tutti io, l'altra. Ah, gli ho detto, ma la voce ha diventato macchino, che gli ho detto. Ha detto, vai, il televisore te l'hai comprato tutto e lo sintonizzi tu. E cosa lo sai, tutto il giorno qui ha sintonizzato il televisore tu, gli ho detto, cagazzo. Vai, gli ho detto. Prima che mi vengono le crisi politiche, gli ho detto. Cosa vuoi fare? È gente vigliacca e basta. Aspetta un attimo. È regolato male. Ola. Ecco, così va bene. Ola. Così va bene. Ma si pompelli, sì. No, il coso. Sto regolando lo rosmetro. E beh già, ti piace? Ma lo sai davvero, Antonè? Dove stavi tu prima a fare la visita diabetologica? A Romanincumio. Diabetologica? Io diabetologica non ho fatto visita. Ha fatto, siamo alla visita medica lì. Di Arizzetto. E li hanno trasferiti a Rizzetto. Trasferiti alla festa? Lo so. Qui c'è tutto normale. C'è addirittura fanno i vaccini di lì adesso, sai, sì. Sì, già lo so, ma io sono prenotato in via Grazia Delè, da lì. Il giorno 30 vado e faccio la terza dose. Io e mia moglie siamo prenotati lì. Natalie mi ti sta chiamando. Chi è avanti? Noi stiamo partendo da casa con Franco, vai. 10 minuti e scendi, te lo prendi perché poi alle 7:30 dobbiamo andare a ritirare la roba a mangiare. Chiara chiara, dai, quando siete sotto chiama. Ehi, arriva in radio, così evita il telefono. Cappa, cappa. Ebbene, Claudio. Ehi, Anto, dai, sono in macchina. Ci sentiamo dopo. Ok, non c'è problema, dai. Andrende. Bello, bello mix. Bello è già. Bello, sì, come dei canali c'ha quello. Beh, è una cosa professionale. Adesso, se mi accompagnano, sabato devo scendere a Valghero a prendere la custodia. Ah, l'hai comprato lì? No, l'ho comprato a Sassari, a Treme Musica. Ma vabbè, anche roba seconda mano quello lì. Negativo, l'ho preso nuovo. Ah, ho capito. È un bel mixer, bisogna saper usare per il mixer. Eh beh, grazie a Dio l'esperienza già ce l'ho. Va bene. Ma sta facendo serate sempre? Se mi chiamano sì, lo faccio. Ciao, va bene, se no lo uso in casa così. Qualche volta lo uso in casa, però già c'è un altro più piccolo. Già. Se a me mi chiamano la volta la serata, se no ogni volta. Perché anda gratis, no. Gratis, nemmeno un pugnaoci di cudine, ma... L'avevo mandata la cosa che ho fatto gruppo Lomonti a Halloween. Ho visto, Ciao, va bene. Questi circoli così non sei uscito da questi, da queste cose qua, solo in circoli vai. Allora mi chiamano. Vieni avanti, avanti, che hai tornato, va bene. Faccio la vita. Avanti, Natalino. Natalino. Ecco. Avanti, Roberto. Sì, buonasera a tutti, ho sentito a te, a Gianni, Antonello, il mio Antonello, Antonio e chi c'è, Natalino. Ciao Roberto, ci sono anch'io, là. Vabbè, me lo do un controllo, buonasera. Cosa vuoi, di controllo di che genere, di radio o di segnale? Di segnale. Segnale è quasi 9.30, radio 5, chiara e pulita. Va bene, allora, là. Andate. L'altro giorno non riuscivo a sentirti già, cosa ti è successo? Il vento mi ha bloccato in due lantene, non stavo tenendo solo il filo e non potevo salire nemmeno perché c'era tutta quella grandinata, quel maltempo, non facevo manco salire. Perché arrivavi 9, però cazzo, non si capiva niente, tipo quando c'è una cosa che non risuona bene, qualcosa... Beh, tu immaginati che lo stilo centrale era a penzoloni, era affiancato all'altro stilo. Al basso. La tenuta solo dal cavo interno. Per fortuna il cavo interno è di quello bello massiccio, grosso, capito? Quindi quello rotondo, bello massiccio. Quindi ha tenuto bene, perché io la mia paura non era altro che cadessi giù. Ehi, aspetta, ha parlato qualcuno sopra, chi è? Tu certo? Ehi, vai! Mi spiti stai facendo, il bambino birichino. Ma si attaccano le vasibusti di spiti. Attacca, dai, attacca, pitbull. Questo segnale comunque me. Cosa già, cosa fuori? Mi sono intreppato. Aspetta che c'è quel cocainomane di Claudio. Avanti Claudio. Allora Claudio quello che stava parlando. Ma cosa vuoi attaccare? Cosa vuoi attaccare? Ciao Roberto, buonasera. Claudio, io sono in macchina. Appa, buonasera, buonasera Franco. Io sono in macchina, No, mi sembra troppo basso sto andando. Ditemi un po', come sta andando di segnale? Già se vado bene, macchina io, sono in macchina con Franco, stiamo a portare il microfono a Salino e poi dobbiamo andare a ritirare il pizzo. E allora avete un po' di vostra stagione, quando rientro a casa avete chiuso qui. Dai. No, manco una mazza, fatela bravi. Passa i occhi, basta che ti illuminò il baracchino. Illuminato Gildo. Va bene, dai, bianco per me. Siete forte, c'è qua. Sto scherzando, sto. Fatemi un controllo di segnale per curiosità, che ho dei dubbi. Cazzo, sei 9.30 qua, poco fa è 9.40 nell'altro apparecchio. A voi che va bene. Non lo so, mi sembra che sono più basso del normale io. sola. Già sta uscendo, la voglia, voglia. No, no, è tutto sotto controllo. Se no te la prevedo io, te la prevedo. Al mio controllo, Robè, fa la cortesia di segnare. Quasi 9 più 30, sì, tu. Poco meno di 9 più 30. Scappa tu, è da te. Da cazzo misura i ginocchio. Antonio supera 9,30. Il più piccolo sono io, là. Io 9,25. 40 pure, però. Il più piccolo sono io che sono il più lontano. Se devo attaccare dall'altro in chi. Vabbè, ma il più piccolo sono io, là. E quel cocco ma ne di Natalino. Il più piccolo sono io adesso. Cazzo, io ci sono tu a casa. Ah no, mi sono a casa tua. E ti faccio rubare a chi, no? Hai capito, bello beh. Vieni. Crepalo qua, crepalo a quest'Antonio. Crepalo. Cazzo, non bottezza. La casa vi ammazza tutti. Ha un segnalone e una cosa pazzesca. Con qui su gatto d'antenna di plastica. L'alluminio da riboccio. Ma voi la plastica non lo gioco. Lavate scegliere la mia, Claudio, quella penna in gomma che ho io è precisa. Guarda, io sono anche a Sosso. Antonio non ce l'è per nessuno, Ma davvero, non sto scherzando, ma anche a casa, quando è attaccato, arriva quante Gianni? Quante Gianni arriva? Non so se di radio o lo greba, non lo so. C'è un segnalone allucinato. Per forza, ora l'amplificatore l'ho messo la mano io. Così, cazzo ti butti mai i cazzi due? Non è un amplificatore attaccato, no? Non ne hai adesso, bello bene, non ne hai? Natali, sono qua al ponte di Rosello. Gira il traverso fra che ci buttiamo. Che sto scendendo. Allo basso. Poi ci buttiamo. Chi è che ha parlato sotto a Natalino? Antonio, sono sotto casa di Natalino, cazzo, però ti ho sentito, la mazza che te ne varia. Ma tu, ma con cosa stai uscendo per curiosità? A me stai dicendo, con 87 sto uscendo. Ah, quindi c'è qualche cosa sotto, stai arrivando fortissimo qua. Cappa, va via presto. Stai proprio presto, lo faccio andare su qua. Cioè 9.35 qua il segnale, è fortissimo. Claudio a me non mi ascolta, sono mezz'ora che lo chiamo, non è manco mi risponde. Oh Robè, dimmi fra. Questo passaggio quant'è? Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non arrivi a 9.30 con i picchi. Aspetta un secondo. Guarda adesso, 1, 2, 3. Superi 9.30 adesso. Hai volato, corri di vista. Vai, parti fuori già, Che è che ha detto la Lugrebo? Vai, fatti fuori già. È entrato uno che ha schiacciato a tutti, ha detto la Lugrebo. Vai, fatti fuori già, gamma, vai. A chi regia? A Trudeggia. A chi regia? A me, Franco e Claudio. A tutti i buffetti di Savarotti. Chi è questo? Io, Alessio. Il microfono normale, per sapere. Qui sono 9.60, per te non c'è studio. Io non ho quando ti arrivo. 9.35. Gappa gappa! Provate a parlare insieme a Claudio e Antonio. A me scusa, Gianni e Antonio. Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prova! Grazie, Gianni, ti passo a coso. Di poco, ma ti passo Antonio. Scusate il telefono. Sì. Allora, sono io. Quasi 20, Antonello, e dimmi cosa c'è? Ma dopo questo segnale come? Roba. Mi senti? 3-4. 9-25, sì. Allora. Ora. Aspetta che abbasso, dai. Chiudo. Guarda per vedere quanto sono io, Antonello. Tu sei 9.30, già lo sai. Quando pilotti qualcosa non ce n'è per nessuno. È come questo. Ecco qua, adesso sono attaccato. Accende il segnale. E la buia 6.30 Radio 5. Bravo! Hai visto? Lo spirito CT pilotandolo con 15 watt. Tanto io quanto ti sto arrivando lì? Fondo scala. E sono liscio, sto uscendo con 5 quarti. Sei 72 metri di distanza, per forza. E allora, che prova si fa così? In lontananza bisogna provarle queste cose. E allora. Cappa, buonasera, chi sei, Sorso? Cappa, ciao, tu. Cappa, cappa, ma dovrei arrivare bene a Sorso, eh? Sì, arrivi bene, 8 arrivi, radio 5. Siete a 2 metri di distanza uno dall'altro, che proprio cosa vuoi provare? Ma infatti, in lontananza, fa la cortesia, Franco, guarda in questo segnale, 1, 2, 3. Buonasera Franco, quello dice anche a me il segnale perché ho aggiustato la tela che mi si è truccata in due. Aia. Franco, 6, 8, sono arrivati a 9, invece... Franco di Sorso, qua. Gianni è... Diciamo è 9, modulati a 9, 5, là. Avete parlato di due, comunque buonasera Franco. Radio oggi salutato, andate all'altro Franco, ma non mi sentivate? No, siamo scesi, che ero da Natalino a portarle un microfono. Ho detto cacchio, ma non mi sente nessuno, ho detto quelli sono con 2 kW a testa, c'hanno. Comunque lei già ti ascolto, 9.15 sei Claudio in questo passaggio. Franco, mi ascolti a me? Sì, 9.20. Vabbè, io sto scendendo con 5 watt adesso, ho fatto la prova con l'amplificatore a vedere quanto stava arrivando lui. Sì, sì, no, parlavo Franco di Sorso. Cazzo che ti ascolto, vabbè, buonasera. Vabbè, segnali via, perché poco fa ho detto, forse non sto uscendo. No, stai uscendo, stai uscendo. Segnale 8, radio 5 sempre. Tu sei quasi 9.10 con i picchi, è radio sempre 5, chiara e pulita. Ok, a chi aspetta? C'è Natalino Alfa 1, avanti a te Natalino. Devo rimanere in quel Rix che mi devo saldare un paio di fili. Ehi, poi c'è Antonello Compugno, Antonio Antel Mike. Ehi, vabbè, fra. A me 7-8 mi sembra che mi sentivi, giusto? A me qua sei 9, fra. Ti ho salto tanto, grazie, io non mi dico, aspetta. Visto che... Non lo sbaglio questo lineare o cosa sarà? Con quei 210 mi sto segnando. Aspetta che scendo di qua, se no rischio di bruciare tutto. Ecco fatto. Adesso ho sceso. Guarda un po', fra. 6-7, la radio deve essere buona, poco fa eri già in saturazione. E il segnale quant'era? Quasi 8, no, quant'era? 9, la cosa del genere? No, 8 era. Antonio, tu c'hai l'antenna troppo bassa, per quello è il problema, puoi morire la potenza di acqua, non riesci a radiare tu da lì. Ti sto alzando, allora. E infatti, non riesci. Facciamo finta che sia il chiamato questo, 6-8, ecco, questo 50 watt. Che sta facendo lineare, naturalmente. Stavo dicendo, Antone, tu quando aumenti potenza, cioè rientri allucinati, ce l'hai troppo bassa con l'antenna. Secondo te la metto alta, no? Con questo casino che c'è, non mi fido, guarda, c'è un amico che vuole venire qui a casa e mettermi il telescopico, se ne vanno di 6 metri. Ha detto vai, lascia perdere, gli ho detto che dormire sogni tranquilli, non voglio trovare il palo. Di nuovo saturando, sta ammazzare qualcuno. Di nuovo sta saturando, ti sei riabbassato di segnale, ma stai saturando, Antone. Eri 9.60, sei sceso a 9.50 e sei tutto non si capisce. No, ma non ho detto di alzarla di 4 metri, ti metti un palo massimo 2 metri per alzarla un po' di più. No, guarda, sono liscio, mi sto scendo liscio, non sono attaccato. Questo già va bene. Ok, facciamo riprendere a Franco di Sorso, vediamo un po' se ci ascolta. Avanti Franco. Ehi, perché che non vi ascolta lui? Benissimo. Gianni, ma quale si è pensata la gamate? Ehi, non dopo l'avevo aggiustata l'altra volta, l'altra parte, altre due parti si sono pensate. È rimasta a pezzoloni col filo e ballava, ma tutta la notte non potevo vedere, tutta la notte con la paranoia che cadessi giù. Meno male che quel capo è grosso e ha resistito. E oggi vabbè siamo saliti e l'ho messo a posto. Adesso ho attaccato il Galaxy, come sta andando? Come segnale? Adesso sei 9.10, sì. La radio un po' pesatina. Che c'è per fuori il fuoco al massimo? Satura. Ma hola. Sì, se te sa allineare a qualcuno.